Radio 24 presenta Platone, la caverna dell'informazione di Leonardo Manera. Buongiorno, sabato 26 luglio, anche questo sabato come tutti i sabati siamo qui con Platone, la caverna dell'informazione, dove commentiamo un po' i fatti dell'ultimo periodo, della settimana, per capire se sono veri, se sono finti, se sono verosimili e aggiungerci anche del nostro, insomma. E lo facciamo con Alessandro Milan. Eccomi qua, ciao Leonardo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Allora, siamo entrati ormai in pieno nell'estate, siamo a fine luglio, tra poco si partirà e quindi anche i giornali cominciano a occuparsi di temi prettamente estivi. Diciamo. Ah sì sì, assolutamente, temi imprescindibili. Per esempio, vorrei farti questa domanda: tu sei un buon gustaio? Sono quelle che fa le abbuffate? No, le abbuffate no. Con i montoni, i quarti di bue sulla griglia. Si appesantisce tantissimo, poi però si può smaltire, insomma. Esatto. L'importante prima è digerire. È digerire. Non entrare in acqua prima delle 4 o prima delle 5. Dipende, se finisce alle 4 un quarto, 4 meno un quarto di mangiare la grigliata. Però sai che se entri in acqua subito non hai problemi. E infatti mi dicevano così: se entri in acqua prima che cominci la digestione puoi farlo, al limite muore il bom. Se invece aspetti quei 20-30 minuti sei a rischio congestione. Ecco. Vabbè, insomma, dopo questi consigli medici, c'è però un signore dall'America che ha pensato di rimediare a tutte queste abbuffate, tutti questi cibi, inventando che cosa? Il beverone liquido. Il beverone liquido che elimina la grigliata. Esatto, elimina la grigliata. Cioè, tu ti prendi questo bel beverone, in sapore, in odore forse anche, che dà tutti quei principi nutrizionali di cui hai bisogno durante il pranzo. Bevi quello, sei infelice ma sei sazio. È una tristezza infinita. È una tristezza immane. Mangiare è uno dei piaceri della vita e qui si abolisce questo piacere. Almeno però dai, si dà la gastrite anche quello, o no? Sì, penso di sì. L'altro piacere della vita quale sarebbe? Io non lo so, non lo pratico più da tempo. Quindi il mio unico piacere è rimasto il cibo. Il cibo. E quindi questo signore ha inventato dagli Stati Uniti questa Soylent. Ma lui vuole anche risolvere il problema della fame nel mondo. C'è una cosa col beverone. Molto col beverone. Bisogna beverone. Fare dei container pieni degli aerei, tipo i Canadair pieni di beverone. Esatto. Che spardono, è un neologismo, spardono. Però dà l'idea, no? C'è un altro personaggio che ci regala dei neologismi. Sì, lo sentiremo dopo. Vabbè, insomma, viva, abbiamo iniziato con questo bel beverone di tristezza. Io ricordo che c'era già anni fa una cosa simile di un'azienda che produceva prodotti dietetici. Sì. Non ricordo più qual era, però era un beverone che tu prendevi e io l'ho provato, quando volevo dimagrire l'ho provato, sono effettivamente dimagrito. Ah. Però ho fatto il vuoto intorno a me, non so perché andavo in giro con questo beverone e mi ero veramente amareggiato, intristito. Cioè tutti dicono andiamo a mangiare due cose, io vi do il beverone, faccio delle cene a casa mamma mia. Mamma mia, effettivamente mette un po' tristezza. Per fortuna però si va in spiaggia d'estate. Si va in spiaggia tutti, uomini, donne, bambini, nipoti, adulti, nonni e animali. Anche gli animali. I cani. Questo è un vero dramma, perché molte persone con i cani dicono cosa faccio io? Molte spiagge non ti fanno entrare. È vero, a volte si portano nel canile qualche giorno prima e li si tiene per il tempo della vacanza, insomma. Invece adesso c'è questa novità per cui il TAR della Calabria ha stabilito che i cani hanno tutti i diritti degli individui, degli esseri umani, hanno tutti i diritti intangibili, quindi anche il diritto di entrare nelle spiagge. Basta che non giochino a pallone, possono stare in spiaggia, però. Quindi vedremo anche i cani con la crema solare spalmata sui pastori tedeschi, la crema abbronzante. Sì, effettivamente. Però noi vogliamo entrare anche un po' nel vivo di questa puntata, perché abbiamo al telefono un comico, un amico che si occupa anche di temi estivi. Vediamo se è già in linea con noi. Ci sei, Claudio Batta? Ci sono, ciao Leo. Buongiorno Claudio. Allora, buongiorno. Tu tra l'altro sei in spiaggia in questo momento, se non sbaglio, sei in Sardegna. Esatto, mm-hmm. Sono in Sardegna, in spiaggia, e arriva il momento della spiaggia, arriva il momento del due pezzi per le donne e per il boxer fantoziano per l'uomo. Sì, è un classico. Ecco, insomma, arriva il momento della verità. Mm-hmm. Dopo le diete invernali che ci hanno fatto soffrire per tutto l'inverno, insomma, ci domandiamo se saranno servite queste diete, sì o no? Non lo so, tu cosa dici? Ma non lo so, la dieta noi italiani non siamo capaci di farla, o meglio, la prima settimana siamo bravi, ligi, poi diventiamo un po' come tutti come dei musicisti jazz, no? Improvvisiamo così. Si fa la dieta fai da te in qualche modo. Sì, improvvisiamo la dieta, facciamo una dieta tutta nostra, che ha un nome, meglio conosciuta come dieta a cazzo di cane. e quindi, insomma, che può stare in spiaggia, dicevamo, il cane, non è il resto. Esatto, parlavate di cani, ecco. E quindi, diciamo, noi ci creiamo le nostre dosi, scegliamo le dosi, gli alimenti, ma il problema, Leo, il problema è che non mettiamo a dieta solo noi stessi, solo noi adulti, no? Dobbiamo mettere a dieta anche i bambini, no? I bambini prima li facciamo mangiare, siamo l'unico popolo che fa mangiare 5 volte al giorno i nostri figli, no? Li ingolfiamo, questi biberon con dentro, quando il bambino è piccolo e piange, ha fame, no? Allora facciamo il biberon con dentro il latte in polvere, il plasmon, cioè, a momenti ci mettiamo dentro la caponata, dentro il biberon, e poi ingolfiamo i nostri bambini che crescono, diventano gonfi, no? Sono gonfi, a 5 anni sono già dei piccoli Costanzo in miniatura, senza collo, arterio otturati già. E dopo invece li obblighiamo alla dieta? Poi li mettiamo a dieta, e quando sono a dieta però dove li portiamo a festeggiare il compleanno? Da McDonald's, ho indovinato? Bravissimo, da McDonald's. E cosa li facciamo mangiare? La torta al cioccolato guarnita con gli Smarties, che non è educativo tra l'altro farli mangiare la torta con gli Smarties, perché li fai associare il divertimento alle pastigliette e non è educativo. Insomma, una volta in Italia mangiavamo bene, sapevamo mangiare bene, adesso invece no. E poi a costo di mangiare tanto e spesso ci inventiamo degli alibi, no? Che più delle volte sono assurdi, sono stupidi, tipo mangiare davanti a un film non fa ingrassare perché la trama del film distrae lo stomaco. Non stai dicendo, però è così. Io vorrei però concludere questo incontro telefonico con te dando un suggerimento un po'. Diamo un suggerimento utile agli italiani. Ecco, allora bisognerebbe, signori, mangiare meno e meglio piuttosto che mangiare tanto e male. Ecco, dopo questa pillola di saggezza noi, Claudio, ti salutiamo. Io devo andare a fare il bagno. Va bene, Claudio, grazie, buona estate e buon divertimento a te. Grazie Leo, ciao, buona ciao, estate ciao, a tutti ciao. Voi. Allora, questi erano i consigli di Claudio Batta per l'estate. Effettivamente la dieta estiva è sempre un problema, anche quella invernale, poi basta la grigliata di Ferragosto e tutte le diete se ne vanno in un attimo, no? Sono quelli 2 o 3 appuntamenti fissi nell'anno che ti fanno prendere migliaia di calorie. Però l'estate è anche la stagione, come si può dire, delle iniziative culturali e dei concerti, delle mostre. E allora siamo qui con l'assessore Birolli, che è l'assessore alla cultura. Buongiorno del Buongiorno. Comune. Dove è che posso parlare? Aspetti un momento, cultura del comune di Gottarello. Sì. Assessore che in realtà ha avuto questa iniziativa, ha abolito l'assessorato alla cultura. Abbiamo abolito, sì, esatto. Abbiamo abolito l'assessorato alla cultura per non discriminare. In che senso, assessore? Infatti la cultura discrimina chi non vuole essere acculturato. Ma anche chi non vuole essere acculturato c'ha diritto di essere trattato come gli acculturati. Non so se mi spiego. Sì, si spiega benissimo. Quindi cosa avete fatto? Quindi noi abbiamo abolito l'assessorato alla cultura e abbiamo creato finalmente l'assessorato al passatempo. Al passatempo, in che senso? Che dentro ci possiamo finalmente mettere di tutto. Qualche mostra di quelle pesanti e vabbè, anche qualche passatempo di quelli che piacciono alle persone normali, caro Manera. Per esempio, ti faccio qualche esempio. Assessore, guardi, era prevista una mostra sui quadri di Piero della Francesca, famoso pittore, insomma. Sì, vabbè, e tutti gli altri pittori, allora, questi che fanno tutti le Madonne col bambino, che poi a me mi parlano tutti uguali. Insomma, ognuno ha il proprio stile, assessore. Ma sti pittori, questi pittori antichi di cui parliamo, sì, mica c'erano tutta antichi, sta fantasia, poi diciamo la verità, facevano sempre ste Madonne col bambino. Sì, perché erano commissionate, vabbè, comunque. Vabbè, vista una però ne hai viste tutte. Ognuno ha il proprio stile. Vabbè, però non c'è sta fantasia. Sì. Ecco, allora, noi, finalmente, abbiamo deciso di sostituire sta mostra de Madonne che io mi sono battuto in consiglio per parlare di questa cosa qua, assessore. E abbiamo fatto una cosa molto più popolare, cioè molto cosa? Più azzeccata, molto più giusta. Che cosa avete fatto, che assessore? Tra l'altro c'è anche molta più fantasia, me lasci che dire. Cos'è, assessore? L'abbiamo sostituita con una mostra di tutte le scritte che si fanno nei bagni degli autogrill. Una bella iniziativa. Che autogrill in Italia ce ne stanno tanti, sì, ne stanno. Sì, sì. Oh, ci crederete? ci abbiamo avuto il triplo di prenotazioni di quelli che volevano venire a vedere i quadri dei Vittoroni. Perciò abbiamo centrato il bersaglio, caro dottor Manera. Certo. C'ho avuto ragione io o no? C'ho avuto ragione io o no? Non le sembra in questo modo di aver svilito la cultura in qualche modo? Allora, forse non ci siamo capiti. La cultura non esiste! Lo voglio dire a tutti gli italiani. La cultura è un'invenzione dell'intelligenza per far fuori tutti gli altri. E chi non l'ha capito o è ignorante o è in malafede. Grazie assessore Birolli. Grazie per essere stati con noi. Finalmente. Quindi grazie all'assessore Birolli e noi invece qui ci fermiamo. Sei un amante degli scherzi? Ti piace farne e riceverne? Sei un tipo veramente spassoso? Vorresti che fosse sempre il primo aprile? Allora acquista con consapevolezza l'olio extravergine di oliva Carnevale, l'olio extravergine per scherzo, inconfondibile per il suo colore marrone, per il suo gusto indecifrabile, per la provenienza incerta. Olio extravergine di oliva Carnevale, inadatto per i fritti, inadatto per condire a crudo, efficacissimo per cancellare tatuaggi. Oui, consigliato dai migliori cuochi di Parigi. C'est magnifique. Platone, la caverna dell'informazione. Bentornati a Platone, la caverna dell'informazione. Dicevamo prima che siamo entrati ormai nel vivo, nel pieno dell'estate, e allora abbiamo qui con noi in studio un comico, Diego Parasole. Buongiorno Diego. Buongiorno Leonardo. A cui abbiamo chiesto di commentare qualche cosa riguardo a dei temi tipicamente estivi. Tu hai trovato qualche cosa che possa rispondere a questo requisito? Beh, assolutamente sì. L'altro giorno proprio su Repubblica c'era un tema estivo, cioè il caldo di quest'estate. In particolare si diceva questo: da 130 anni, da 134 anni per l'esattezza, non c'era mai stato un giugno così caldo. E un luglio così freddo, lasciami aggiungere. Assolutamente, perché sì. Abbiamo avuto questa differenza totale fra il giugno e il luglio, e un'estate che sembra non arrivare più a luglio. Infatti questo è il tema a cui volevo agganciarmi, è fondamentalmente l'effetto dei cambiamenti climatici. Ovviamente quando si parla di riscaldamento della Terra si parla del clima medio di tutta la Terra, per cui magari da una parte più caldo, dall'altra più freddo, è anche difficile, cioè noi possiamo avere percezioni diverse a seconda della zona del mondo in cui ci troviamo a vivere. In ogni caso, in Groenlandia c'è stato un caldo record, in tutte le zone del polo c'è questo problema dei ghiacci che si stanno sciogliendo, ci sono gli eschimesi che comprano i glu di 6 stanze, l'anno dopo i ghiacci si restringono e si trovano un bilocale. I cambiamenti climatici, insomma, stanno incominciando ad avere un serio effetto sulla nostra vita, e come dicevi tu, ci siamo trovati a passare da un giugno caldissimo a un luglio invece che non sembra neanche estate. In questi giorni sta piovendo a dirotto, viene voglia di pensare che forse dovremmo prepararci per costruire l'arca di Noè, però onestamente io penso che l'arca Noè se l'era costruita tutta da solo, tu saresti in grado di costruirti un'arca? Assolutamente no, non riesco neanche a attaccarle menso. Esatto, quindi vai all'IKEA e imprechi così tanto per montarla che per colpa tua la fine del mondo arriva parecchio tempo prima. Quindi ragioniamo forse sul fatto che dobbiamo cercare di ridurre i nostri consumi energetici e rallentare un po' il riscaldamento globale. E questo è quello che ci dice Diego Parasole, che ringraziamo per esserci venuto a trovare qui a Platone. Grazie Diego. Grazie Leo, ciao. E allora questo era Diego Parasole, che ringraziamo per essere stati con noi qui a Platone, e che insomma ha cominciato anche a parlare di temi più importanti, non solo il cazzeggio un po' sull'estate, ma anche cose veramente che riguardano la vita di tutti gli italiani, e come il lavoro è un tema sempre attuale, Alessandro. Purtroppo Leonardo, sì, sai che in Italia forse è la preoccupazione principe per milioni di italiani, la mancanza di lavoro, e non ci sono grandissime buone notizie. Per esempio, molte persone che ci stanno ascoltando magari sono in cassa integrazione, sappi che i soldi per la cassa integrazione stanno finendo, rischiano di rimanere 150.000 persone in cassa integrazione a secco, nel senso che il governo deve trovare dei soldi per finanziare periodicamente questa cassa integrazione. Al momento pare che si arrivi fino a marzo dell'anno prossimo, ma servono da trovare 400 milioni da parte del governo, almeno raccontava il Messaggero qualche giorno fa, per rifinanziare questa cassa integrazione. E non sono facili, tu hai un contributo da dare per questi 400 milioni. Io dico sempre che ho 2 euro in tasca, ecco. Ma di questi 2 euro magari metto a disposizione posizione una parte, perché non è che posso. Però dopo, più di così. Dopo questa notizia, che insomma non è bella, invece ce n'è una positiva. Ce n'è una sbaglio. Positiva, perché non in tutti i settori va malissimo. Nei primi 6 mesi dell'anno, raccontava La Stampa qualche giorno fa, ci sono alcuni settori nei quali si è creata occupazione. Sai quali sono questi settori? Soprattutto badanti. Badanti, gli anziani golf. Invecchi, ci sono sempre più anziani, quindi sì. Servono sempre più badanti. Sempre più badanti. Golf. Golf. Addetti alla ristorazione, operai dell'industria alimentare, perché se magna, non beveroni, però si mangia cose vere. Personale degli studi di architettura e ingegneria, consulenti informatici e programmatori internet. Questi paiono i settori nei quali gli architetti c'è... è sempre una. Secondo me l'architetto va bene, perché anche se non lavora, comunque ha dei progetti. Per il futuro, diciamo. Salutiamo ovviamente tutti gli architetti all'ascolto, un grande abbraccio a loro. Però insomma il lavoro è sempre un tema importante che riguarda tutti noi, e se non sbaglio abbiamo una telefonata adesso di un signore che si è trasferito all'estero per lavorare. Sì, esattamente, Leonardo, abbiamo al telefono il nostro Battista, che ogni tanto ci chiama. Buongiorno Battista. Chi parla? È Milan? Sì, sono Milan. È quello che fa rassegna stampa di Radio 24. Del mattino che parla, ma non si capisce bene, no? Ah, sì. Ecco. No, sei Milan? Sì, sono io. Che ora fai di mattina? Io? A che ora mi sveglio? L'ora della rassegna, che ora è? Alle 6:30. Fino a che ora? Alle 9. Non ti ascolto mai, Mila. Va bene. Non ti ascolto, Mila. Va bene, va bene. Voglio dirti questa cosa, tutte le mattine, io so che ci sei, ma non ti ascolto mai. E sono rassegnato a queste ma cose. Ma comunque, anche voi non parlavate del lavoro, no? Che è un tema sì. Che... quello che ti state dicendo. Sì, lavoro, esatto. Lei... Io sono andato a estero a produrre, sono andato all'isola di Samoa. Samoa, sai dove è Samoa? Un po' lontano. 180-190 ore di volo almeno che devi fare. Beh, insomma, adesso non... Quando arrivi non ti ricordi neanche più perché sei partito, Mina. Effettivamente. Ho conosciuto donne che sono rimaste incinte durante il viaggio per Samoa. Addirittura. Mi hanno partorito prima di arrivare, Mina. Vabbè. E poi anche con tutti gli scali che fai e rischi di perdere il bagaglio. Ne ho persi più di 200 bagagli. Mi è venuta la malattia ansia da perdita bagaglio. Si chiama Sansonite cronica. Sansonite, sì. Hai capito, Mina? È bella malattia, E anche... Non ti ascolto, Mina, la mattina. Anche poi, lasciami dire, no, Mila, che anche per arrivare fino a Samoa il biglietto è costoso, sono migliaia di euro. Fortunatamente ho trovato una compagnia economica, si chiama Fly Down Air, che non solo economica, è anche pericolosa. Si capisce che è pericolosa perché quando comincia la discesa non c'è la voce del pilota che dice abbiamo iniziato la discesa verso Samoa, si preghi tornare ai propri posti. La voce dice abbiamo iniziato la discesa verso Samoa, si prega, basta. Sono ben augurante. Ma hai capito, Mila? Sai perché sono andato a Samoa perché? A produrre? Appunto, perché? Perché Samoa? I lavoratori samoani, i samoiardi, non è come i lavoratori italiani che pretendono stipendi tutti i mesi, le ferie pagate la 13ª. Ma scherziamo? Ma scherziamo? Ma scherziamo? Samoiardi, forse samoani, ma non noi lo so. Noi a Samoa la 13ª la diamo una ogni 13 operai. Questa è serietà. Questo è il modo giusto di fare. Ma dai, e poi non è come in Italia che i giovani vogliono tutti studiare all'università perché la cultura è dannosa, e te lo dimostro. Vuoi che te lo dimostro, Mila? Dimostri. Io lo dimostro perché, lasciami dire, Mila, Giacomo Leopardi ha scritto la poesia del passero e anche le altre, è morto a 30 anni. Jerry Calà è tutta la vita che dice cazzate, sta ancora benissimo. Ah sì, lunga vita Jerry Calà. Ho ragione o no? E per questo motivo allora sono andato a produrre all'estero e invito tutti gli italiani ad andare anche a seguire il mio esempio di imprenditore che è andato a produrre all'estero. Ti saluto, Mila. Va bene, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie, gli altri. Ascolti la rassegna stampa, mi raccomando, di Radio 24. Non ascolto mai. Mai. Grazie comunque. Leonardo, così è Battista, questo è, e ce lo teniamo. Battista ce lo dobbiamo tenere per forza, così almeno è un ascoltatore fedele che ci segue sempre. E però invece noi abbiamo un altro, non è un ascoltatore ma è un nostro collaboratore, che ogni settimana mandiamo nei luoghi tipici dell'estate per vedere cosa succede durante questa estate italiana. Vediamo dove si trova il nostro inviato Ratko oggi. Buongiorno Manera, buongiorno Milane, a tutti gli ascoltatori, che bellezza. Oggi mi trovo in posto più frequentato dai italiani de sempre, ma più dei Mini, più di Riccione, di Piazza San Marco, di San Pietro, del Colosseo, più di tutto. Oh, finalmente sta adempiendo il suo compito, il suo dovere. Quale sarebbe questo luogo? Facebook. Ah, ecco. Tutti sono sempre su Facebook. Perché Facebook puoi dare sfogo a tue fantasie. Facebook non è come tu sei, ma come vuoi apparire. Tu puoi scrivere che sei tipo solare, magari invece sei più grande cacacazio dell'Unione Europea. Questo è vero, si può un po' mentire. È vero, puoi mettere una bella foto del bambino africano che sorride e magari a semaforo hai cercato di investire suo padre con fiori e tutto. Puoi firmare una petizione per salvare Foca Monaca e intanto svuotare in water olio esausto del tuo SUV. Puoi mettere aforismi di Guy de Maupassant mentre scorreggi. Chi te sente, Manera? Questo è vero, ma il bello di Facebook forse è che si può proprio mentire, inventarsi anche un'identità, insomma. Sì, fa parte del gioco. Su Facebook tu magari hai 4.000 amici, anche poi se pompieri ti trovano morto sul divano di casa, messo come mummia di Similau, con in mano un salvavita beghele, in altra mano cellulare, che cercavi di chiamare gente che non te caga, Manera, perché non te caga nessuno. È vero, però su Facebook è diverso. Oppure sai cosa si fa su Facebook? Si mette su profilo, sai quella bella foto di quando avevi 20 anni, pieno di capelli, pieno di muscoli? E così puoi fare colpo su quella meravigliosa teenager che sta in menopausa da tempi del drive-in, ma tu questo non sai. Se invece sei un cesso, tu e anche lei, ci puoi mettere sempre una bella foto di uno pupazzo, di uno gatto, di una rosa, che bellissima. Sì, è proprio la caratteristica di Facebook, e molti su Facebook millantano delle caratteristiche che non hanno, appunto, no? Pensa a tutti quelli, per esempio, che mettono foto di aragosta, ci scrivono sotto buon appetito, e poi magari stanno mangiando panino con frittata. Poi, una questa cosa che mettono foto di cibo, io non capisco perché. Tutti fotografano quello che mangiano, ma mai nessuno che fa fotografia prodotto finale, ma sarebbe prodotto finale, prodotto interno lordo, beh, farebbe... Sì, sarebbe un po' schifo, insomma. Ma no, è come una specie di Piero Angela homemade, no? Uno dice, ma guarda un poco come si è trasformata quella matriciana, era così bella prima. È bello. E poi una cosa, chi non vorrebbe mostrare suo culo, scusate parolaccia, a chi ti invita a giocare a questi Castleville, Safari Escape, Bingo Bash, tutti questi cazzo dei giochi che si fanno su Facebook? O chi non vorrebbe sputare in un occhio quelli che ti invitano a questi eventi assurdi, tipo 3 giorni di workshop su come castrare cavalli con mano, oppure ti invitano a feste assurdi, compleanni di Peppa Pig, festa di laurea di Oscar Giannino, ma insomma, ma lei arrivano tutte queste richieste anche così strane, Ratko? Ha voglia, ma se mi hanno invitato a matrimonio gay di Giovanardi. C'è andato? Non avevo niente da mettermi. Bene. Grazie Ratko, ci sentiamo più tardi. A dopo. Grazie, a dopo. Questo era Ratko, il nostro inviato, ma vogliamo invece adesso lanciare un gioco che abbiamo già fatto in realtà le altre settimane, quindi non è un vero lancio. Abbiamo un interprete diverso che è Danilo Vizzini, che canterà per noi un pezzetto di canzone e voi dovete indovinare, capire qual è la parola sbagliata di questo pezzetto di canzone. Allora, qual è la canzone, Danilo? In stile anni 60, Ti voglio cullare. Ah, bellissimo. Sentiamo una strofa di Ti voglio cullare e voi indovinate qual è la parola sbagliata. Legata ad un granello di sabbia. Legata ad un granello di sabbia. Esatto. Allora, parto. Sì. Tutto a cappella. Sì. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me ti abbronzerai. Ai, ai, ai. E allora voi indovinate qual è la parola sbagliata? Pensateci durante questa nostra pausa. Sei un dermatologo in cerca di nuovi clienti? Allora acquista e regala ad amici e conoscenti la lozione dopo barba Lambro, la lozione che produce ogni giorno nuove eccitanti novità sulla tua pelle, risolvibili solo con l'aiuto intenso di un bravo dermatologo. Dopo barba Lambro, il dopo barba per l'uomo che non teme il pericolo, consigliato dai migliori visagisti di Parigi. C'est magnifique. Platone, la caverna dell'informazione. E allora vi ricordiamo di mandare le mail per le vostre risposte alla parola sbagliata della canzone che ha cantato Danilo Vizzini. La potete mandare a Platone Elt Chiocciola. Cioè, Elt Chiocciola no. Elt è un. Perché tu dici. Perché, no, tu, non, dici, perché tu dici Chiocciola? Piace, quindi rassegnati giusto. A Chiocciola. A me non piace dire Elt. A parte che dà un'idea che ti fermi. Alt, no? Così sei arrivato et, alla fine. Elt poi. Et, però sul tasto c'è scritto Alt, se non sbaglio, giusto? No, ma non lo so. Vabbè, no, dice così. No, c'è scritto, se tu guardi guarda, sulla tastiera. Fabio Cantadore dice ti faceva no, c'è scritto alt, ma non è quello alt cance, si dice et la chiocciola in inglese. No, io so non solo so. Che bisogna schiacciare CTRL alt cance. Ma quello per riavviare. Ma non ci siamo proprio. Allora mamma mia ragazzi, CTRL alt cance, sì. Allora ridiciamo l'indirizzo di alla l'indirizzo tua maniera mail. O alla mia? Io lo dico la mia e tu lo dici, anzi dillo prima tu. Platone et radio24.it. E invece io dico Platone chiocciola radio 24. Contro il cult cance, sì, punto com, punto, mettete un punto it, insomma. Ma noi non abbiamo solo questo indirizzo di posta elettronica, abbiamo su iniziativa iniziativa pressante di Alessandro Milan, abbiamo anche Twitter, un account a Twitter. Ma certo, chiocciola Platone 24, allora, ti piace? @Platone 24. L'account a Twitter è Platone 24. Platone 24. Abbiamo notato, tra l'altro, che in diversi, insomma, molte persone ci hanno insultano. Molti ci insultano. Ma molti ci elogiano, eh. Molti ci elogiano. Noi vorremmo qualche donna in più, non peraltro, ma perché Radio 24 ha un target più maschile. Più maschile come ascolti, effettivamente. E invece sarebbe bello se... Noi puntiamo alle donne, invece. Noi puntiamo alle donne, so già che con scarsi risultati, però... Ma tu l'hai trovata quella di 70 e rotti anni? Che... Ricordo che si chiamava Gisella Turio. È l'unica donna che mi ha scritto. È l'unica donna che mi ha scritto, questa Gisella Turio. Ha detto: io ho 62 anni, sono troppo giovane per te. E io le ho detto: no, però devi invecchiare male. Donne! Quindi, Platone chiocciola radio24.it. Gisella Turio e anche le altre donne anziane che casomai ci ascoltassero, diciamo per loro chiocciola, perché magari la donna anche, giusto, di una certa età ha meno domestichezza con l'inglese. Le loro nipoti invece a Platone @radio24.it. Tu punti alle nipoti, io punto alle nonne. Quanto vorrei essere lì con voi. Questa era più una nipote, mi sembra. Era più una nipote, però tu non lo sai, ma questa voce è proprietà di una ragazza che è oltre i 30, quindi non è proprio giovanissima. Ma cosa stai dicendo? No, una donna dopo i 25, insomma. Ma che cosa? Che cosa? No, insomma, dopo i 25 è nel pieno della maturità. Oh, ecco. È nel pieno della maturità. Abbi il coraggio. Infatti io ho detto già altre volte che preferisco la donna anziana rispetto alla donna giovane. La donna sopra i 50 ti mette meno adesso non dico che le 50 anni sono anziane, qui mi sto creando una serie di nemiche. Ti stai avviluppando in una spirale che, da cui non uscirai. Insomma, io voglio una donna che non mi dia ansia da prestazione, questo voglio. Una bella 85enne. Bella, tranquilla, che stia lì, con cui fare delle cose, parlare del più del meno, cucinare una lasagna. Vaffanculo al resto, va bene. Allora, noi prima abbiamo parlato con Ratko, che vediamo, l'abbiamo lasciato pronto su Facebook, che non ha @chiocciole, no. Ma vediamo a questo punto com'è. Ratko, ci sente ancora? Certo, ma chi si è mosso da Facebook? Oh. Sto guardando filmati di Facebook, bellissimo, un sacco di cani che cantano, poi vecchi che ballano, tutti i vecchi ballano su Facebook, da noi hanno pannoloni, invece su Facebook ballano in filmati, bimbi che ruttano, poi vedi incidenti che non puoi neanche pensare, magari vedi aereo che cade sul pullman, che prende fuoco, che esce da strada e va a concludere il suo viaggio dentro al tendone del circo, dove autista salta fuori da vetro e finisce in culo dell'elefante. Però alla fine nessuno si fa male, anzi, elefante fuma anche sigaretta. Ma sì, perché insomma il bello di Facebook è anche che tutto viene un po' esasperato, viene un po' aumentato, che è una rappresentazione anche di se stessi. Prendiamo per esempio anche i personaggi pubblici, no, dei Facebook. Prendiamo uno, per esempio, uno che conosciamo tutti, Alessandro Milan. Sì, no? Guardi sul profilo, andiamo a vedere un attimo Alessandro Milan, sì. Guarda qua. Sembra quello di Santa Maria Goretti, guarda. Persona in tegerrima, tutto casa, chiesa, famiglia, lavoro, 24 su 24. Infatti. Però poi vai a spolgiare un poco più a fondo e scopri altarini. Gli altarini di Alessandro Milan. Raccontaci quali sono gli altarini di Alessandro Milan. Sì, gusti di Alessandro Milan, vai a vedere pagine che a lui piacciono. Vediamo like. Per esempio, lui, pagine che ha messo like, ha messo pagine come quarantenni tutte culo e pepe. Questo non sapeva. Lucciole non lanterne. Capisci allora? Ma dove? Ma quale profilo stai guardando? Ma vedere di che gruppi fa parte Alessandro Milan. Ma quali gruppi? Vediamo gruppi. Ecco, per esempio, lui fa parte di un gruppo che si dice come curarsi con superalcolici. No, ma... E questo, guarda, questo diti medi alle suore. Vedi, questi sono gruppi che frequenta. Chi l'avrebbe mai detto che l'integerrimo Alessandro Milan avrebbe avuto questi gusti? Sì, ma io immaginavo che uno così, che uno biondino con quell'occhietto furbetto, dai, si vede. Adesso si è anche tagliato i capelli corti. Sì, ma lui chissà che giri ha le mutande. Noi. Alessandro Milan, un uomo che ha dedicato la vita al sesso. Quello che dico io. Tra l'altro, Ratko, stiamo aiutando Alessandro Milan nella sua credibilità come giornalista. Sì. Trasmissione. Quindi sono giornalista? Sì, a questo blocco hai deciso di sì. È importante. E invece, altra cosa che succede su Facebook, e qua voglio fare un attimino persona seria, no che dice cagazzi, come ho detto fino adesso. Ecco, no? Appunto, precisiamo. Milan, tu sei furbetto, no? Quella era verità. Questa è ancora più verità, però, veramente. Sono bufale che ci sono su Facebook, cioè quelle notizie false. Sì. Per esempio, su noi Rome, qua veramente dico serio, no? Uh-huh. Girano un sacco di notizie finte, no? Per esempio? Ma esempio... quando dicono che noi rubiamo bambini, questa è una cosa che continuano a dire. Ecco, questa è una cagazia, non è vero? Rom ti potrà rubare portafogli, portarti via Mercedes, svuotare casa, ma mai bambini. Ma Nera, siamo pieni di bambini. Questo è anche io vero. Ho 9 figli, neanche uno cazzo di lavoro. Ma secondo te sono così coglioni da rubarne ancora? Ma dai. E che voi italiani piace questi luoghi comuni, no? Allora, comunisti mangiano bambini e zingari rubano. A questo punto conviene essere zingaro comunista. Puoi sempre dire che hai rubato per fame. Ma comunque, Rasco, ma lei veramente ha 9 figli? Io ho 9 figli. Che io volevo fermarmi uno di meno, fare 8. E che ultimi sono arrivati 2 gemelli, Sasha e Sasha. E perché li hai chiamati uguali? Perché è più comodo. Adesso è estate, fa caldo. Fai sete, basta che dici: Sasha, porta una birra, e te ne arrivano 2. Grazie Ratko. Ciao amici. Saluti da me e da Alessandro, certo, Milan. Alessandro Milan. Grazie. E allora Alessandro, insomma, non sapevamo di queste tue caratteristiche. Ma no, ma sono false, dai. Ma tu vuoi credere a Ratko? Io ci credo assolutamente. Andate, ecco, anche voi appunto, a vedere il profilo Facebook e l'account Twitter di Alessandro Milan. Ce l'ho. Però ce l'ho. Insomma, tu sei un giornalista, sei il nostro giornalista di riferimento di tutta Radio 24, il giornalista di riferimento Radio 24, quindi dacci una notizia che riguarda l'estate, il costume, qualche cosa, via. Allora, stai attento in estate perché arrivano i paparazzi, soprattutto tu che sei un personaggio pubblico. Ma appena vai al bar di Radio 24, tutti che ti conoscono ti abbracciano, ti salutano. Sai che una volta io sono stato paparazzato veramente, vedi? Da Novella 2000, ero in Sardegna con una mia ex fidanzata, sì, e mi sono ritrovato le foto fatte dal mare praticamente. Io ero sulla spiaggia ed ero insieme, stavo dando un bacio sulla pancia a questa ragazza ed ero nella rubrica di Novella 2000, lezioni d'amore. Ma bellissimo. Ed è stata la volta in cui mia madre è stata più orgogliosa di me, più di quando mi ha visto fare qualcosa in televisione, eccetera. Mi ha detto: finalmente mio figlio su Novella 2000. È stata una soddisfazione. Quindi stai attento, anche perché quest'anno pensi magari il padre di questa ragazza, invece, che era candidato sindaco in un paese vicino a Como, era preoccupatissimo perché la figlia, avendo questa relazione con me, pensava che per lui ho fatto un anacoluto. Sì. Sai cos'è un anacoluto? Sì, una figura retorica un po' strana. Dove il verbo non si accorda con il soggetto. Per esempio, io speriamo che me la cavo. Questo è il classico anacoluto. Ma qui facciamo della grande cultura, grande Platone. Ma porca cultura, miseria. Ma dove Birolli? Dove trovate un'altra trasmissione che vi spiega cos'è l'anacoluto? Ecco, infatti non l'abbiamo spiegato benissimo. No, dove non si accorda verbo e soggetto. Io speriamo che me la cavo. Questo è un anacoluto profonda. Classico. Cultura profonda. Comunque, attento ai paparazzi, perché quest'anno se ne sono inventata una per cercare di ovviare al fatto che tu vorrai nasconderti. Arrivano i droni. Droni? Cosa i sono i droni? Ah, dai, sono quelli che si usano anche in guerra, no? Telecomandati. Quegli apparecchietti, tipo elicotterini telecomandati, di varie dimensioni. Ci sono quelli che si usano in guerra. Che sono a volte purtroppo si lanciano bombe con questo, e in questi casi si fanno foto. Ne è piovuto uno nel giardino di Porto Cervo di una ricca imprenditrice che era lì tranquilla, ha visto sto robo qua e che serviva a fare foto, no? Vedi come buttare via i soldi. Questo andrebbe non nella carta costa, ho capito, ma se Leonardo Manera si nasconde in una villa, con tutto cintato, la recinzione, esatto, arriva recinzione, zaccati. È bello anche il parola recinzione, esatto. Da cosa deriva? Da recingo, recingis, boh, questo non lo so. Usque tandem semel in anno licet insanire. Allora, perché stiamo parlando di queste cose? Non lo so, perché ti ho chiesto una notizia, esatto, sull'estate. Sull'estate ne hai un'altra così al volo sugli esteri, via. Sugli esteri. Andiamo all'estero, perché siamo stanchi all'estero. Di parlare d'Italia. Allora, andiamo all'estero e mettiamo insieme estero e chiesa. Tanto la chiesa è in Vaticano, quindi sì, va benissimo. Allora, sai che in Inghilterra hanno deciso di fare i vescovi donna, o meglio, di rendere le donne, che sono già sacerdote, anche con la possibilità di diventare vescovi e quindi a capo di una diocesi. Questa è una grande innovazione. L'ha deciso l'arcivescovo di Canterbury. Ti piace che questa pronuncia? Che è il capo del Canterbury. Che è il capo della chiesa anglicana. Esatto. Il capo spirituale della chiesa, e ha deciso questa cosa, per cui arriverà la prima diocesi tutta al femminile già entro la fine dell'anno. Vescovo una donna. È una grandissima novità. Allora, siccome noi vogliamo stare sul pezzo, abbiamo invitato qui un sacerdote di un piccolo paese di provincia, al quale vogliamo chiedere se è d'accordo su questa innovazione, insomma, che riguarda le donne vescovo, questa nuova visione anche della donna nella chiesa. Buongiorno Don Danilo. Buongiorno a voi, felice sempre di essere qui con voi. Tra l'altro sentiamo che lei ha una voce, insomma, potremmo ricollegarla allo spagnolo all'argentino. Lei è spagnolo argentino? No, sono del Treviso. Ah, e come mai parla così? Perché questo, diciamo, è stato un diktat fatto dal Papa Francesco di parlare con gioia alle persone e al mondo. Rivolgersi con una voce facile, bella e aperta. A differenza di prima, invece... Che è molto dura e molto esigente. Certo. Adesso le cose sono cambiate. Sono cambiate, ci troviamo molto bene, siamo felici noi della base della Chiesa. Però in tutta la Chiesa, non solo quella anglicana, insomma, c'è stata qualche apertura anche da parte di Papa Francesco. L'idea è di vedere la donna in modo diverso, meno tradizionale rispetto al passato. Certo che sì, naturalmente, io sono d'accordo su questo, bisogna dare alle donne ruoli importanti perché lo meritano. La Chiesa ha bisogno della donna ed è proprio la donna che deve occuparsi della Chiesa, sorvegliarla, tenerla pulita, badare ai bisogni del prete che è uomo di Chiesa, servirla e rendersi totalmente schiava, rinunciando a qualsiasi privilegio. Perché una donna che non sa rinunciare ai privilegi è una donna malata. No, come malata? Malata del protagonismo e femminismo. E il femminismo è il diavolo della Chiesa. Ma se le femministe vogliono ritrovare il messaggio del Signore, vadano a servirlo con gioia e letizia in questi ospizi per anziani, a pulirli delle loro feci e del loro vomito con umiltà, ritrovando così la pace interiore senza la smania di fare carriera come vogliono fare. Ecco. E quindi lei non è d'accordo per le donne vescovo? Ma quali donne vescovo? Più che del bastone pastorale, muniamo le donne del spazzolone e candeggina, perché se alla pulizia dell'anima ci pensa l'uomo, alla pulizia della Chiesa ci deve pensare la donna. Ci deve pensare la donna. Grazie Don Danilo. E a proposito di rinnovamento e di personaggi invece un po' passati, almeno dal punto di vista politico, noi ascoltiamo il carrello dei bolliti. Il carrello dei bolliti. Ma io non capisco la Chiesa anglicana con queste provocazioni. Ma perché le donne vescovo adesso, questo strapotere femminile è pericoloso? Deve finire. Quando c'era lui gli uomini portavano i pantaloni e le donne la spesa. Ma, ecco, la spesa. È colpa della carne bianca che è piena di estrogeni, sai? L'uomo forte deve mangiare mortadella. Ma quale mortadella? È colpa dei vertici del clero, della partitocrazia, PC, P2, P38. Se la donna non ricopre ruoli importanti nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Quindi propongo referendum quote rosa in Vaticano, così dopo Papa Francesco, Papa Dolores. I Dolores ce li fai venire tu, ma quali quote rosa? In Vaticano c'è già la parità dei sessi, i preti portano la sottana e molte suore i baffi. Allora, a parte che la carne bianca incide meno sul bilancio della spesa, a parte che un vescovo donna non è detto che percepisca lo stesso compenso di un vescovo uomo, e quindi avremo dei tagli alla spesa. A meno che i vescovi uomini non decidano di diventare donna. Minchia, allora il taglio sarebbe diverso. Uomo, hai problemi di calvizie? Ogni giorno i tuoi capelli si diradano sempre più, ponendoti in una condizione di grave disagio psicologico? Ormai hai capelli unti e sfibrati solo sulle tempie? Allora prova la nuova lozione Riporten, la lozione che non fa ricrescere i capelli perduti, ma rinforza quello rimasto sulle tempie, permettendoti di effettuare riporti al limite della credibilità. Lozione Riporten, perché l'uomo vero si vede dal riporto. Consigliato dai migliori parrucchieri di Parigi. Oui, c'est magnifique. Platone, la caverna dell'informazione. E allora col carrello dei bolliti siamo entrati un po' in tema politico-politici. Questi erano i personaggi politici del carrello dei bolliti, quelli che andavano per la maggiore fino a qualche tempo fa. Invece adesso le cose sono molto cambiate. Alessandro, la politica è fatta da altri personaggi anche sconosciuti, insomma. Per esempio? Per esempio, adesso la voglio vedere a chi dà dello sconosciuto. No, vai, a quasi tutti. Assumiti il coraggio. Mi assumo a quasi tutti i cittadini del Movimento 5 Stelle. Perché fondamentalmente sono sconosciuti. Tu, insomma, la prima puntata mi hai fatto un esame, adesso ti dico: dimmi tre deputati del Movimento 5 Stelle. Allora, Di Battista è del Movimento 5 Stelle, sì. C'è Vito Crimi. Vito Crimi, bravo. E Paola Taverna. Vedi, bravissimo. Luigi Di Maio. Di Maio, della Camera. Sì, no. Comunque arrivare a 5 forse non ce l'avrei fatta. Tu? Non ce l'avresti. Sì, dai, Giulia Sarti. Ah, beh, ma perché tu sei un frequentatore del palazzo, no? Non di Giulia Sarti. No? Non è quello che subito hai pensato. No, io non ho pensato. Ho solo riso, non ho pensato. Hai pensato che io ti volessi... Io non penso mai. Anche secondo me tu ti sei incapricciato di Giulia Sarti, di cui non conosco assolutamente l'aspetto, però... È una bella ragazza di 27-28 anni. Giulia Sarti, Alessandra... Ah, quindi è un onorevole. L'hai conosciuta di persona? No, di persona no. Mm. L'hai vista, gli hai parlato al telefono? Ah, in foto. In foto, sì, al telefono l'ospitale. Aveva ragione Ratko quando dicevo del tuo profilo e dei tuoi gusti. Però invece noi abbiamo qui un piccolo scoop. Abbiamo al telefono un deputato che si fanno chiamare cittadini, no? Se non sbaglio. Cittadini. Quindi un cittadino del Movimento 5 Stelle, cittadino Drena. Hai mai sentito parlare di questo Drena? No, non ne ho mai sentito parlare, però sono curioso. Beh, sai che ce ne sono tanti al Movimento 5 Stelle, anche come dicevo prima, che non sono conosciuti. E noi abbiamo appunto il cittadino Drena. Buongiorno Drena. Buongiorno. A quanto pare Drena, Renzi, il Presidente del Consiglio, fatica a far approvare le riforme e anche voi ci mettete del vostro, sono 8.000 emendamenti, Drena. Certo, noi ci opponiamo a queste che sono finte riforme, in realtà sono solo una copertura. Una copertura, dice lei, una copertura per cosa? Per non svelare retroscena. Ah, ci sono dei retroscena quindi, Per non svelare che il governo Renzi, che non è stato votato dagli italiani, in realtà è frutto di un complotto voluto dalla CIA. Cioè un complotto voluto dalla CIA, il governo Renzi, perché? Per sviare l'attenzione dal problema delle scie chimiche. Questa è una cosa interessante. In cosa consiste? In cosa consisterebbe questo complotto? Tutti sanno che il problema delle scie chimiche è un problema di cui non si vuole parlare, perché potrebbe portare a capire che non si tratta di normale condensa, ma di operazioni di bioingegneria che potrebbero portare a svelare un altro complotto. Quindi complotto su complotto. Quale? Quello del tentativo di microchippaggio di massa. Vogliono controllarci tutti, in modo da eliminare chi viene a contatto con gli alieni, che ormai è chiaro sono presenti sul nostro pianeta. Cioè, quindi scie chimiche, il governo Renzi, scie chimiche, microchippaggio di massa e alieni, perché secondo lei sono già presenti sul nostro pianeta? Certo, sono d'accordo con la CIA per far durare il governo Renzi, fino a quando gli alieni riusciranno a ottenere sul loro pianeta un prodotto che noi possediamo in abbondanza, ma che loro non hanno. Qual è questo prodotto? Le mozzarelle di bufala. Noi di bufale ne abbiamo tantissime, ma gli alieni no, sono ghiotti. E quindi il governo Renzi è stato voluto dalla CIA e dagli alieni? Certo, per esportare le bufale anche su Marte. Grazie al cittadino Drena. Ah, mi togliete la parola? Ho capito, è un complotto. Grazie Drena. Grazie. Hai visto questi complotti che ci sono? Tu l'hai un po' censurato. Un pochino, ma perché mi sembravano cose talmente strane, insomma. Sei uno del potere, tu sei uno... Del palazzo che censura e che non dà voce. Tu non vuoi sapere. Apriti, Leonardo, alla conoscenza. Sto cercando, stando qui insieme a te, sto cercando di ampliare le mie conoscenze, ma insomma non è così facile. Tu sei del club Bilderberg. La cosa poi strana è che... Anche le cose che sembrano più inverosimili a volte succedono veramente. È vero. Quindi c'è stata questa notizia di un uomo di nome Cameron Reed, in California, che è uscito di casa, forse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e con una pistola in mano ha cominciato a sparare alla luna perché cercava di abbatterla. E noi, per saperne un po' di più, abbiamo al telefono proprio il vicino di casa di questo Cameron Reed. Buongiorno. Oh, Johnny, my name is Johnny Walker. Nice to meet you, Mary. Buongiorno, insomma, Johnny Walker. Johnny Walker. Un nome strano, singolare. Sì, non è proprio il mio nome, che noi USA tutti usiamo sponsor, che ci aiuta economicamente, no? Anche presidente, Barack Obama, lui questo nome adopera solo quando viene da voi estero, ma qua da noi nessuno chiama così, tutti chiamano Vodafone. Vedo che parla anche un po' di italiano, signor Walker. Imparato facendo parole crociate. Compra anche tu settimana enigmistica e passerai ore liete del vero piacere. Altro sponsor, insomma. Fortunatamente qui, insomma, non abbiamo troppi problemi di censura. Ma Mr. Walker, mi racconti un po' del suo vicino di casa, questo Cameron Reed. Sì? A proposito, lui non ha uno sponsor? Sì, lui ha sponsor, però adesso voi siete di mattina, non andate in onda, ora protetta, fascia protetta, e non è bello chiamare lui preparazione H, capisci, come pomata per culo, insomma. Non so perché, mi sembra un po' di sentir parlare Ratko, comunque forse. Comunque, al di là del nome, signor Walker, pare che il suo vicino di casa abbia sparato alla luna, se non sbaglio. Alla luna? Ma anche alla luna, meno un quarto, mezzanotte, 20, 3 meno 10. Andato avanti a sparare tutta notte, ma se non colpiva io e lui in fronte con zoccola di legno, eravamo ancora là. A zoccola era del dottor Schull, comodi anche ottimi, ma anche per abbattere vicino. Sì, e quindi è stato lei a porre fine alla sparatoria? Yes, Maneri. Prima ho colpito lui con zoccola e poi ho consegnato al nostro sceriffo. Sceriffo si chiama Tono Nostromo. Sì, ma è vero che faceva uso di sostanze stupefacenti? Ma no, Maneri, absolutely no. Sono media che mettono queste bugie in giro. Io ho fumato con lui 1000 volte e non c'è mai stato niente di stupefacente, mai andato fuori neanche di 1 millimetro. Sai quante volte ha detto lui, ma dove compri questa merda? Sì, ma se non era sotto l'effetto della droga, allora perché avrebbe sparato alla luna? Sponsor, Maneri, uno dei suoi sponsor, che sono quelli che producono armi. Sai che lobby di armi è molto forte in USA, ma vedi che il nostro paese mette in piedi una guerra ogni pisciata di cane in giro per il mondo per consumare armi che produciamo. Da noi armi c'è dappertutto, anche sotto letto, così è Maneri. Questa è la sua visione. Sì, tanto sponsor pagherà anche per far uscire lui di prigione. Credimi, era peggio se Cameron, invece di sparare alla luna, ci tirava bistecche di pollo, perché invece di in galera sarebbe finito in manicomio, e l'anno esce con cauzione, Maneri. Grazie signor Walker, grazie ai suoi sponsor. Grazie anche a lei. Ringraziamo insomma il nostro Johnny Walker, che poi in realtà avete sentito si era anche trasformato in Ratko. È vero, è una magia, una magia, una magia. In realtà si chiama Luca Klobas, è uno dei nostri, degli autori, degli autori della trasmissione, insieme anche a Danilo Vizzini, insieme ad Alessandro Milan, insieme a Leonardo Manera. Leonardo Manera è il conduttore. Conduttore è una parola grossa. Conduttore è una parola grossa. E quindi Luca Klobas, che è tra l'altro di origine veramente slava, interpreta Ratko e lo fa benissimo. Quando fa gli altri personaggi sono sempre Ratko. Questo è un po' il problema. Lui è Ratko dentro. È Ratko sempre. Però nel suo pezzo del vicino di casa, mentre c'era il vicino di casa, ci ha sottolineato, diciamo così, l'importanza degli sponsor, che ormai sono dappertutto, no? Sì, sono dappertutto, soprattutto in TV. In TV, nei mass media, e questo ci serve per arrivare a uno dei nostri personaggi fissi. Al nostro grandissimo professor Limoncelli, storico e critico della TV. Che ritroviamo con grande piacere, il nostro grandissimo professor Limoncelli, buongiorno! Ma buongiorno a lei, buongiorno, benvenuti a tutti, voglio dare il mio benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Grazie a lei, Mila, no? Che mi sento particolarmente benevolo, ecco. Ah, bene, infatti non mi ha ancora detto che sono spiacevole. Una persona discutibile, spiacevole, assolutamente. Ecco, allora, Mila, lei vuole chiedermi qualche cosa riguardo la televisione? Sì, sì, noi come perché sa... Perché io sono storico e critico della televisione. Esatto. Ecco, un personaggio di un certo livello, che si abbassa anche a partecipare alle vostre trasmissioni assolutamente discutibili. Va bene, ma noi come sa... Mi faccia la domanda, Mila, anche non ho tempo da perdere. Non ha tempo sono da perdere. Sono una persona molto impegnata. Molto impegnata, sì. Storico e critico. Allora, qual è la domanda? Mi aspetto lei una domanda particolarmente interessante, che entri nel vivo della questione, che peraltro non ho ancora esattamente capito qual è. Mi faccia questa vediamo, domanda. Vediamo se è abbastanza interessante e al suo livello soprattutto. Sì, qual è d'estate l'importanza dei mass media e della televisione? Ma è una domanda banalissima, Milan, da un giornalista mi aspettavo qualcosa di più interessante. Comunque oggi, mi lasci dire, la televisione, nonostante le apparenze, è ancora fondamentale. È vero che sono subentrati altri mass media che portano avanti il ribaltamento della logica preesistente, ma la cara vecchia televisione, in una visione ricondotta a unità, potenzia e incrementa, quale sua premessa, l'annullamento di ogni ghettizzazione, recuperando, ovvero rivalutando, nel contesto di un sistema integrato, l'appianamento di discrepanze e discrasie esistenti. Mi ha capito, Milan? Sì, già in pratica cosa significa? Ma non significa assolutamente nulla, sono una serie di stronzate assolute, godo nel dire una serie di stronzate senza nessun significato, e godo nel vedere che voi mi ascoltate come se stessi dicendo una serie di assolute verità, godo dare sfoggio della mia cultura, e credo che voi limbiate solo parzialmente la mia preparazione. Sì. Lei sa cosa significa il verbo limbiare? No, no, so che è un comune limbiate, ma non... Ma è di un'ignoranza completa ed assoluta, è di un'ignoranza completa e assoluta, Milan, perché limbiate non significa nulla, è un verbo che mi sono inventato sul momento, una stronzata assoluta. Ecco, appunto, mi sembrava. Vabbè, professore, limbiare, allora... Limbiare. Ti dà l'idea di sfiorare, no? Limbiare. Se lo segni nel suo vocabolario, è utile per le sue trasmissioni. Limbiare. Ecco, prive di cultura, peraltro, totalmente prive di cultura. Totalmente. Allora, veniamo al motivo per cui lo ospitiamo. Semelinando, Ma allora mi dica. Sì, durante l'anno dov'è il canone e dove non è il canone? Questa è la domanda che le facciamo. Quali sono, insomma, sì, le trasmissioni per le quali vale la pena pagarlo questo canone? Allora, cominciamo da quelle inutili, sì, totalmente inutili. Una trasmissione assolutamente inutile al servizio pubblico di Michele Santoro. Ma come no? Uno stupido gioco delle parti dove ognuno porta avanti inutilmente le proprie idee preconcette. Una trasmissione assolutamente inelegante che in alcuni tratti trovo persino volgare per il gioco delle parti che si mette in scena. Sì. Sarebbe diverso se invece Beatrice Borromeo, un bel pezzo di gnocca, avesse una parte più importante. Sarebbe diverso se Beatrice Borromeo conducesse completamente la trasmissione al posto di Michele Santoro, però vestita in abiti succinti, facendo indovinare le sue forme. In fondo anche Beatrice Borromeo sotto quell'aria da intellettuale di sinistra, sì, è una bella smandrappata che non mi dispiacerebbe frequentare. Ah, ecco, io appunto sono appassionato, mi lasci dire, di smandrappata. Ecco, di Beatrice Borromeo anche. Anche lei è una bella smandrappata, certo. Sì, ma dove si trova invece il canone? Cioè quale trasmissione vale la pena guardare? È una trasmissione su una piccola emittente del digitale terrestre. Sì. Tele Eros 69. 69 non è un numero a caso, mi lasci dire. Un talk show, fanno un talk show dove le protagoniste non solo sono femmine in topless, ma sono tutte particolarmente dotate, che al posto del seno non hanno un seno, hanno due bombe, delle vere bombardiere, particolarmente ammiccanti, che invece di essere intellettuali di sinistra parlano degli argomenti che interessano veramente alle persone, alla gente. La gente, sempre questa ossessione per le bombardiere, professore storico, critico. Sì, sì, sulle quali vorrei far atterrare queste bombardiere sulla mia porta aerea, mi lasci dire, anche lei. No, ma che anche lei, parli per lei. So che lei ha questi gusti. No, parli per lei, parli per lei. Certo, parlo per il sottoscritto. E parla sempre il sottoscritto. Allora, quello, mi lasci dire, Mina, non mi interrompa di continuo. Vabbè, ho capito, se posso fare qualche domanda ogni tanto. È una trasmissione assolutamente educativa, educativa, ecco. Sì, educativa, perché, in che cosa educativa? Perché spiega, per esempio, come rendere felice un uomo sotto le coperte. Come e da chi rifare il seno, quali posizioni assumere per evitare l'eiaculazione precoce, tutti argomenti di assoluto interesse generale, soprattutto se a parlarne non sono femmine normali, ma donne che al posto del seno hanno due vere bombe, sono delle bombardiere anche di fatte, non mi interessa, ma due vere bombe, ecco, che vedrei di buon grado posarsi sulla mia porta aerea, come ho detto in precedenza. La porta aerea. E questa è cultura, questa è somma cultura. Questa è la cosa che interessa veramente alle persone, non i talk show finti come servizio pubblico di Michele Santoro. Santoro, e io dico questo dall'alto della mia cultura e della mia preparazione di storico accademica e critico televisivo. Vabbè, professore, la ringrazio come sempre. Grazie, buona, arrivederci. Grazie. Milan, buona giornata a lei. Rendere felice un uomo sotto le coperte, molto interessante. Hai visto che ogni volta il professor Limoncelli ci dà delle perle di saggezza. Io sono abbastanza d'accordo con lui, devo dire. Sulle bombardiere, no? Sulla porta aerei. Sul fatto che alla fine quegli argomenti sono quelli che interessano. No, sta dicendo che gli argomenti anche dei talk show politici, eccetera, spesso sono usurati, è un po' un gioco delle parti a volte, o no? Sì, certo, c'è modo e modo per esprimerlo. Beh, il professor Limoncelli dall'alto della sua usa sempre posizione delle perifrasi, sempre molto sobrio. Sì, sì, sì, sì. Ma noi invece con questo abbiamo terminato la puntata, quindi vi diamo appuntamento sabato prossimo alle 9, dopo aver vi ricordato la nostra mail, che è platone@radio24.it, invece l'account Twitter lo dice l'account Twitter lo dice Alessandro Melan, platone24. Non c'è prima chiocciola? Sì, ma chiocciola puoi anche non dirlo su Twitter, lo sanno tu, mamma mia ragazzi, proprio l'ABC, chiocciola Platone 24, chi usa Twitter lo sa, dai. Metti che mia madre per esempio vuole collegarsi, devi dire ma chiocciola. Se usa Twitter sa che deve mettere la chiocciola davanti. Vabbè, vedi che c'è sempre da imparare. Allora ci vediamo sabato prossimo fissi alle 9 più o meno con Platone. Ciao a tutti, grazie.